Siete tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Vincenzo Nibali ormai è dentro l'ultimo chilometro ed è con un minuto, oltre un minuto di ritardo invece Esteban Chaves. Potrebbe essere il suo secondo Giro d'Italia nel momento in cui nessuno più pensava potesse ritornare in gioco per la vittoria finale. Primo in classifica generale, lo squalo che va a riprendersi dal Giro d'Italia. Lo squalo. E adesso Cristiano Ronaldo. Se fa gol lui è finita. Rincorsa da pistolero. Fa lui col destro. Rete! Non può sbagliare Ronaldo! Non può sbagliare il migliore di tutti! Il Real Madrid è campione d'Europa per l'undicesima volta! Hamilton si trova al tabaccaio adesso, non si ferma a comprare niente perché continua come un leone. Gli intertempi di Hamilton non erano... Ma è incredibile, ma non può succedere questo. Non aveva neanche una gomma pronta. Che ha vinto 4 titoli mondiali, non aveva le gomme. E Hamilton, vediamo se può ringraziare, è alla rascassa adesso, sicuro, con Grosjean davanti. Eccolo che arriva Hamilton, lo passa. Vandosi insieme però, perché ha traiettoria interna Ricciardo, ma alle spalle, ma non ci posso credere. In piedi già sulla tribuna alla Rascas e poi sul traguardo per Lewis Hamilton che si avvicina a conquistare, e lo fa adesso per la seconda volta in carriera, il Gran Premio di Monaco. Beh, la domanda che vi faccio in questo lunedì insieme a Giorgio De Luca, il nostro autore, a Gianmarco Ferronati in regia, a Federico Vigna in redazione, è la più facile di tutte: quale impresa sportiva vi ha emozionato di più in questo weekend? Io grandi dubbi non ne ho, ed è quella in rosa di Vincenzo Nibali, di cui tra poco parleremo. Ciao Pierluigi Pardo! Beh, non può esistere il dubbio proprio. Non esiste il dubbio, nemmeno il gol di Pellè contro la Scozia in una maglietta improponibile. No, ma ognuno, ovviamente, le emozioni figurati non è che possono essere decise a tavolino da altri, ognuno avrà avuto le sue, però credo che un po' per come è arrivata, quindi con questo senso dell'impresa, della rimonta, dell'impossibile, impronosticabile, impossibile, qualcosa di chiuso, qualcosa di finito. Ci coinvolge da vicino come italiani, quindi penso che Nibali sia nettamente l'impresa del weekend. Per lei ieri ha dimostrato di essere comunque un giocatore affidabile. Poi sai, in Italia siamo chiaramente, come in tutti i paesi, un pochino concentrati sul nostro campionato, quindi magari voto all'Italia di ieri sera. Sei perché comunque la sono storia, d'accordo, sono d'accordo. No, la storia delle amichevoli azzurre non è una storia mai troppo positiva, quindi alla fine ha vinto banalmente in amichevole, c'è qualcosa. La storia delle amichevoli azzurre spesso porta anche a delle caporetto clamorose, a delle sconfitte clamorose, perché a noi delle amichevoli non ce ne può fregare di meno. Sì. Quest'anno, sai, si arriva con un tale livello di emergenza dal punto di vista dei giocatori, adesso sono ancora nuovi problemi per Montolivo, dal punto di vista muscolare, e con un clima talmente scettico sulle possibilità di questa squadra che secondo me anche le amichevoli probabilmente vengono vissute con più, con un minimo di attenzione in più. Il gioco... Così, io ti dico, ho fatto un po' di zapping ieri sera fra Foggia, Lecce, Venezia, Milano di basket. Bravo, Venezia, Milano di basket, anch'io. Ho tradito di azzurri per larghi tratti. Anzi, mi dispiace, potevamo sincronizzarci in modo che uno guardava una cosa, uno guardava l'altra e poi ci scambiavamo le informazioni. Anch'io ho fatto la stessa cosa. Senti, ti faccio sentire cosa ha detto Conte dopo la partita di ieri sera. Inevitabili saranno scelte dolorose, e mi dispiace, però mi sento di ringraziare già in anticipo le persone che comunque rimarranno a casa. e chi verrà avrà ancora di più una responsabilità, perché sto lasciando comunque a casa persone, uomini straordinari, questo è fuori dubbio, e me l'hanno dimostrato in questi giorni. Questo Conte 800240024, parole di circostanza, mi pare, no, Piero? Sì, beh, però parole giuste, parole intonate in linea con quello che un commissario tecnico deve dire e che penso che stia anche vivendo. Io sono molto curioso, ti dico la verità, sono molto curioso perché forse mai come in questo caso c'è una distanza, una dicotomia fra il valore tecnico della squadra e l'umore complessivo, diciamo, calcistico del paese e la forza però di un allenatore che ha dimostrato di avere dei valori molto forti. Insomma, non stiamo parlando di una scelta di secondo piano, eh. Io 2 anni fa facevo il mio piccolo la campagna per Conte perché pensavo che fosse il nome giusto. Ma anch'io, e tutti noi, no? Te lo ricordi? Ma tutti noi. Penso che Conte dia tutti delle garanzie, noi, tutti esatto, noi l'abbiamo dia delle fatto. Garanzie di essere uno che li fa lavorare, che li tiene sulla corda, che li motiva bene, che sa leggere tatticamente le partite. Quindi sono molto curioso. Poi è chiaro che nel calcio ce lo dimostra in qualche modo Real Madrid, Atletico Madrid, nelle competizioni brevi. Tutto può cambiare per una questione di centimetri o per una situazione arbitrale o per, però insomma, bisogna arrivare bene e le difficoltà sono tante, oggettivamente abbiamo dei problemi e ti ripeto, sono molto curioso. Allora, cioè, io ho un sacco di messaggi, 800240024, vale anche per WhatsApp, molti riguardano il calcio, molti riguardano il ciclismo. Come questo, oltre al monumento a Scarponi, fare un monumento alla famiglia Chavez, scrive Dario, oppure l'impresa fatta Cruise Week, che cadendo ha buttato via un giro stravinto. Grande Vincenzo, spero solo che abbia il buon senso di smettere prima dell'irreparabile, tra virgolette, non so cosa intenda l'ascoltatore con questo irreparabile. Comunque, parleremo di calcio, di sport, di Formula 1, di ciclismo, di un sacco di altre cose, anche dopo il traffico che ci attende, 800240024 0024 al numero verde, oltre che della finale di Champions League con il dramma dell'Atletico Madrid, la vittoria del Real, il ciolo distrutto come tutto il ciolismo, è un argomento, se vogliamo, psicologicamente interessante. Ne parliamo dopo. Tutti convocati. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it vi presenta. Convocati. Andrea Monti, direttore della Gazzetta dello Sport, buongiorno. Eccolo qua, una notizia per te. Ho una notizia per te. Come va? Sto uscendo da c'è Nibali da noi, sì. E sarà da voi tra poco. Lo so, ci proviamo, anche perché per noi il Giro d'Italia è un'istituzione storica, per noi di Radio 24. Vi ringrazio. Senti, direttore, molti mi scrivono, ok, quanta fortuna, però se l'olandese non cadeva sulla neve, e però se mio nonno aveva le ruote era una carriola. Io credo che questo Giro d'Italia sia stato una specie di miracolo di Vincenzo Nibali, perché io non ricordo, pur avendo seguito il ciclismo fin da quando avevo il pannolino, non ricordo una corsa così chiusa e poi riaperta. È un lo dicevamo con Vincenzo ora, è un fatto straordinario, anche se ci sta che un grande fuoriclasse come lui trovi la gamba alla terza settimana, però effettivamente la mente riandava a quel giro, ti ricordi, con la fuga bidone 30 sì. minuti indietro, e la Liquica fece un capolavoro. Qua devo dire che ha avuto una squadra straordinaria, ma lui ha trovato le motivazioni nel cervello, non nei muscoli, che francamente mi sono sembrate straordinarie. Se l'avesse immaginato chi ha disegnato il giro una due giorni così, ma non avrebbe potuto illudersi. È stato veramente una grande festa di sport. Guarda, è stata l'impresa che io l'ho dichiarato ieri pubblicamente, l'impresa che mi ha fatto scendere una lacrima, e non è facile per me col cuore di pietra, l'unica in questa... È proprio impossibile. Dai, ti dico, quando ho visto sabato pomeriggio quella cosa, il cronometro che scorreva, va bene, stava affettando le cipolle, però... Vi devo dire che il ciclismo ha questa terribile trappola, perché c'è sempre la retorica in agguato, eccetera. No, non è retorica, è emozione, ragazzi, è emozione pura, assolutamente. Ma poi è una retorica sana, cioè, poi alla fine è una retorica che parla di tutte cose che sono utili per le vite di tutti, perché insomma la fatica... la sopportazione del dolore, perché sappiamo benissimo che la vita dei ciclisti è fatta di dolore fisico, oltre che chiaramente di dolore psicologico quando le cose non vanno bene. Sconfitta già arrivata, cioè un Giro d'Italia già chiuso, esatto, si diceva ora che è un angolo psicologico da scavare bene, che Vincenzo è stato massacrato per 10 giorni, no? Quindi anche psicologicamente ha dovuto un po' isolarsi, un po' trovare delle risorse. Ma poi, a proposito di retorica obbligatoria, ma guardate che l'abbraccio dei genitori di Chavez Anibali, sì, hai ragione, è una roba straordinaria. Cioè, ma chi è che aspetta sul traguardo un figlio che è dalla Colombia, non da Pinerolo, capito? E lo abbraccia e dice: te lo sei meritato, cosa che Chavez mi ha detto ieri ancora nel retropalco della premiazione. Premiavano Vincenzo e lui ha sorriso e fa: se l'è meritato. Una roba così. Onore al merito, sicuramente. Poi c'è stata la caduta, sicuramente, che ha favorito tutto. È chiaro che il giro era finito, era morto e sepolto. Però, ecco, a proposito dei messaggi che arrivano prima, godiamocelo anche un po' di, no, anche un po' di culo, no? Un po' di fortuna. Ci vuole sempre nella vita, nello sport, delle cose, no, che possono, ragazzi, succedere. Siamo anche pragmatici. Posso dirvi una cosa? C'è anche una ragione tecnica, attenzione, perché Kruijswijk, che era fortissimo già l'anno scorso e diciamo che nella lista dei possibili outsider era sicuramente in cima, non guida la bicicletta come Nibali, quindi non mi meraviglia, è stato sfigatissimo, però non mi meraviglia che alla terza curva col ghiaccio sia finito fuori, certo. perché guida la bicicletta meno bene di Vincenzo, adesso detto onestamente, e lì è stato attaccato, perché Vincenzo ha preso quella discesa a tomba aperta, lui e Valverde erano scatenati, insomma. Quindi c'è sempre anche dietro la fortuna e la sfortuna una qualche motivazione tecnica, poi certo, cioè, non meritava, è come direttore il discorso di Simeone, che va in conferenza stampa alla fine della partita e dice che poi se l'Atletico l'ha persa ai rigori per una motivazione tecnica, no? Cioè, certo, anche se può sembrare difficile vederla da fuori, però quei pochi centimetri. La crudeltà dello sport è meravigliosa, posso dire. Quella, no? Rigore di Quamprana. Posso chiedere al direttore invece un giudizio su quest'altro grande evento che agli italiani comunque ha dato una responsabilità importante alla città di Milano, c'è cioè una sua valutazione sulla Champions, al di là dell'aspetto tecnico, l'aspetto organizzativo, l'aspetto ambientale, perché insomma mi sembra che Milano abbia dimostrato ancora una volta di essere in salute come città. Diciamo che deve essere l'effetto Expo, ma mi ha impressionato molto di più il contesto, quel San Siro pieno bellissimo, Alicia Keys, Bocelli, eccetera, eccetera, di quanto poi non mi abbia impressionato tecnicamente la partita. Però un San Siro così pieno e così bello, le cose andate veramente tutte lisce anche nella gestione non semplice del flusso dei tifosi, eccetera, a me è sembrata una bellissima prova di maturità di Milano. Nella partita avrei sperato che Simeone vincesse, perché credo che poi alla fine i punti se lo meritasse. Io dico che il grande rimpianto è quello della Juve quest'anno. Più ripenso con la partita e più penso che la Juve poteva essere in partita. Direttore, un'ultima cosa: Milano capitale del mondo in questi giorni, calcistica, ciclistica, eccetera, stiamo così sperando, pregando per le Olimpiadi che verranno in un prossimo futuro. Quale voto dai all'Italia di questi giorni, sportivamente parlando? Sportivamente parlando do un 9, perché mi rimangono in mente quelle straordinarie immagini sui passi dolomitici di ragazzi, ragazze, genitori, figli, lì ad aspettare il ciclismo, no? È come in una canzone di Conte. Il 10 non glielo do perché qualche cretino si è avvicinato troppo ai corridori e Annibali in una tappa, quindi bisogna sempre ricordare che il cretino è in agguato, ma il 9 è pieno e dico che forse le Olimpiadi ce le meriteremmo anche. Aggiungo per esperienza personale diretta la partita delle vecchie glorie, vecchie per modo di dire, perché gente che ha smesso da pochissimi mesi in qualche caso, no? L'Ultimate Challenge che si è giocata l'altro giorno dentro il Castello Sportesco, ed è stata una cosa meravigliosa, perché questa cosa qui ce l'abbiamo quasi solo noi. Il mondo è pieno di cose belle da vedere, di grandezze artistiche, naturali, meravigliose, ed è giusto viaggiare in giro per il mondo, però è oggettivo che la concentrazione d'arte che esiste in Italia e la bellezza e anche il clima che esiste in Italia ci rende, quindi veramente è banale ripeterlo, ma è veramente il nostro petrolio. Noi possiamo far giocare le partite pallanuoto di fronte ai faraglioni o far fare delle corse. Sei romantico a dei livelli zuccherosi, però non c'è niente di romantico, allora te lo dico, bisogna fare i soldi con sta roba, nel senso che noi siamo così, siamo un po' più prosaico, va bene. È il nostro petrolio, cioè io Milano che è una città bella, oggettivamente molto bella, in Italia forse non è neanche considerata come una delle due o tre città più d'arte, anche se di arte ce n'è tantissima, no, spesso nascosta nei cortili di Milano, però non è solo moda, non è via Monte Napoleone, non è solo glamour, non è solo aperitivi e queste cose qui. Andrea Monti, che poi devo salutare. A Glasgow il Castello Sportesco non ce l'hanno. No, non ce l'hanno. Andrea Monti, che poi devo salutare. Direttore. Guarda, devo dire che Malagò sarà contentissimo di questo nostro spot. Adesso, non per passare a cose più prosaiche, bisognerà parlare con la Raggi, perché ho l'impressione che a Roma queste idee olimpiche, che secondo me sono tutte giuste, perfette, ma anche per il sistema paese, abbiano un po' di difficoltà a penetrare, diciamo così, nel nuovo tessuto politico che si va disegnando per questo paese. Quindi io mi auguro invece che tutti ragionino, perché un evento olimpico, un grande evento sportivo, sono per il paese una grande ricchezza. Insomma, dico delle banalità, ma è assolutamente così, insomma, di questo stiamo parlando. Banalità, in 10 secondi, scusa Carlo, in 10 secondi, anche perché noi italiani lo sappiamo esattamente come la nazionale non ama le amichevoli, non ama la normalità e ama le imprese impossibili, ma noi italiani questi stimoli ci servono, nel senso che noi non siamo un paese basato sulla regolarità del rendimento, noi abbiamo bisogno di emozioni, abbiamo bisogno dell'eccezionalità, abbiamo bisogno di sentirci in ritardo. Ma questo è chiaro. Ha dimostrato l'Expo, no? che con i suoi problemi comunque alla fine è andato bene, sembrava fino a 20 giorni prima che fosse un tracollo, la finale di Champions è andata benissimo, probabilmente noi abbiamo bisogno di stimoli, perché magari la quotidianità è che un non difetto, siano abbiamo è un bisogno difetto. Di stimoli che non siano normali, questo lo sappiamo tutti perfettamente. Devo dire che la parabola di Nibali ci insegna qualche cosa. Bravo, noi italiani, direttore, vogliamo bravo. Darci un frisson, un brivido supplementare, ma è quello che rende bella l'impresa. Vai. Grazie, direttore. Un abbraccio, un abbraccio fortissimo, Andrea Monti, direttore della Gazzetta dello Sport. Antonio della provincia di Como. Sì? No? Sì? Adesso, prima della borsa. Antonio. Sì. Dica. Sì. Ok, allora un saluto a Parlo, che mi è simpaticissimo. Anche a me. Grazie, anche a me. Voglio dire una Gli cosa, anche molto bene. Il giro tecnicamente come valore assoluto per con il turno lo cambio. Un secondo ancora, per me il doping è stato debellato, perché queste scaramucce col doping non esistevano, c'erano le certezze. Adesso c'è il crollo il giorno prima e la rinascita il giorno dopo, questo vuol dire che il doping è quasi stato debellato, secondo me, e sono contento di questa cosa. Adelante con giudizio. Spero che sia così, è una chiave interessante, adelante con questo sicuramente, cioè non abbiamo certezze da questo punto di vista, però sicuramente questo è stato un giro, per quel poco che capisco di ciclismo, non di robot. È stato un giro di corridori di sport, meravigliosi, Luigi, e imperfetti. Stiamo parlando quindi... ma stiamo parlando di anche di massimi sistemi, perché nei giorni scorsi abbiamo sentito del riciclo delle provette di Londra 2012, prima ancora c'è stato il riciclo delle provette di Londra di Pechino 2008. Quindi avanti con giudizio, non facciamo le vergini, teniamoci questo trionfo, teniamoci queste emozioni, del resto parliamo dopo. L'atmosfera è bella, ma i bomboni non mancano mai. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Si ricomincia! Tutti convocati. Dunque abbiamo Pierluigi Pardo, Pier Augusto Stagi, stiamo aspettando la maglia rosa di questo Giro d'Italia numero 99, Vincenzo Nibali. Pierluigi, sei vero? Sì, ci sono, siamo pieni di Pier. Siamo pieni di Pier. Pier Augusto Stagi, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo, ciao Pier. Ciao. Arriva Vincenzo Nibali? Sì, io sono qui, Ci sei? Sì, mi sono in linea, penso di sì. Ah, sei in linea. Ah, grande, grande Cannibale. Ok, allora ti lascio alle domande di Pardo e di Stagi, ma prima ti voglio dire una cosa. Allora, venerdì eravamo qui, io, Stagi, Cassani, tristi come le bestie, dicendo ok, oggi sul Colle dell'Agnello sarà una tappa di Merina, non ci credevamo più, e tu hai smentito tutti e hai fatto l'impresa più grande che io possa ricordare, ma non perché sei qui, però pur avendo seguito il ciclismo e lo sport per molti anni, non me ne ricordo un'altra così. Non saprei dire neanche io, perché comunque è stata una giornata veramente incredibile, piena di emozioni, e è difficile poterla descrivere. Sono andati veramente tanti tasselli insieme e si è costruita l'impresa, perché sul Colle dell'Agnello, come dicevo io, ho visto il momento giusto, ecco. Hai visto il momento giusto. Sai cosa mi diceva Stagi, giusto per sputtanarlo un po'? Mi diceva, no, ma oggi sarà tappa di Melina, perché ormai non c'è più niente da fare. È vero, Stagi? No, è vero. Non ho vergogna, ma credo che lo pensasse anche Vincenzo, quando nella sua ultima conferenza stampa, pochi giorni dalle Alpi, ci siamo trovati per qualche minuto faccia a faccia, e lui con grande sincerità mi diceva, quasi a rincuorare lui me, ma non riesco a darmi una ragione, non so il perché, mi sento bene, non ho disturbi, non ho problemi di respirazione, non ho mal di gambe, e però io arrivo fino a un certo punto e non riesco ad andare oltre. E io che lo conosco, e lui che si conosce ancora meglio, sappiamo benissimo qual è il suo colpo di pedale, quello che lui riesce a dare soprattutto in certe salite. E poi quel perché, adesso potremmo quasi girarlo e dire perché è cambiato nelle ultime due giornate. Nelle ultime due giornate è cambiato perché probabilmente, come lui ha spiegato, si è liberato, perso tutto, arrivederci. Allora lasciamolo dire a lui. Lasciamolo dire a lui. Cos'è cambiato, Vincenzo? Ma è cambiato che, parlando proprio così, sì, c'è un po' di verità, però... È vero che non erano arrivate neanche le vere montagne. Lungo questo Giro d'Italia abbiamo affrontato soltanto una tappa vera di montagna, quella delle Dolomiti, con la riva a Corvara. E lì ero stato fino a lì uno dei più forti. Poi ho avuto due giorni un po' così, però mi sono ripreso nelle tappe di pianura. E quando sono arrivate le tappe di montagna, quelle vere, quando vai a toccare le vette che superi i 2500 metri, 2008, quindi le salite dove mi trovo meglio io, lì si è ribaltata tutta la situazione. Sul Colle dell'Agnello, visto che c'era Valverde che era in difficoltà ed eravamo rimasti io, Esteban Chaves e Kruijswijk, allora lì ho visto una buona azione, perché c'era anche Chaves che era, diciamo, intento a voler trovare qualcosa, mentre in difficoltà la maglia, quindi sono state due o tre azioni. E poi l'ultimo chilometro mia, quando si arriva su quell'altitudine lì, ci vuole grande lucidità. Io ho attaccato anche in discesa e Kruijswijk poi ha sbagliato e è successo quello che è successo, quindi noi davanti siamo andati sempre a fondo fino all'arrivo. Quello che fa impazzire di Nibali è la fantasia nel modo in cui interpreta le corse, Pardo. Lui è Messi, è veramente un creativo, ma l'abbiamo detto molte volte, adesso non stiamo leccando il culo a nessuno, perché l'abbiamo detto molte volte, e quindi ci prendiamo gli insulti su Nibali, avete toppato, voi con i pronostici non ci azzeccate mai, Nibali santo subito, scrive Emanuele, e tutto quello che volete. Avevamo dato il giro per chiuso venerdì pomeriggio mentre eravamo qui a parlare, e c'eri anche tu, Pardo. Sì, io c'ero, io non sono salito sul carro perché non c'ero salito prima, ma va benissimo così, non ci capisco niente di ciclismo, e vi chiedo, visto che invece chiaramente il ciclismo è letterario, è una metafora, e hanno scritto tutti, da Renzi a Giovanotti, cioè non c'è, perché è ovvio che questo tipo, anche il direttore Monti prima ce lo ricordava, che questo tipo di impresa dà una lezione, no? Ci dice mille cose, è una metafora di mille cose. Volevo capire a lui che cosa dice, cioè se questa idea che nulla sia impossibile, che ci sembra sempre credere, vale anche per lui, e lui che lezione dà a se stesso dopo questa impresa della sua vita. Ma la lezione è quella che non bisogna demordere mai, perché bisogna cogliere l'attimo, e io sono stato bravo a saperlo cogliere, ma anche il giorno dopo comunque ho rifatto più o meno forse l'impresa più difficile, perché il giorno precedente è nata un po' così, però il sabato, quella di Sant'Anna di Vinatio, invece tutti si aspettavano me e io lì ho dimostrato di essere presente, quindi il giro, si sa, è un giro di 21 giorni, nel dispendio di queste tre grandi settimane non è semplice, tutto può succedere. Io ho un giro in mente, quello di Ivan Basso, che avevamo un record di oltre 30 minuti, e in tre giorni con lo Zoncolan, con Mortirolo abbiamo ribaltato una situazione più o meno quasi simile. Sì, era quasi impossibile. Io lascio l'ultima domanda per Augusto Stagi, che ci racconta ogni giro ed ogni tour. Ma io intanto dico solo a Vincenzo che mi ha regalato una delle gioie sportive più belle di sempre, e chiedo... Allora posso dirti, Vincenzo, sai, aspetta, posso raccontare questo retroscena? Allora Stagi ieri mi ha detto, nel momento sabato, quando c'era la salita, a un certo punto io ho fatto partire l'iPhone, il cronometro dell'iPhone, e non ho più guardato la corsa. Ho alzato la testa quando il numero è arrivato al Stagi 44. E non l'hai più guardata. E guarda, non ce la facevo più, ero agitatissimo. Proprio fatto come pochi. Lui lo sa, perché ogni tanto mi prende anche in giro, perché gli dà emozioni incredibili. Uno dice: ma perché fai il tifo per lui? Perché l'abbiamo detto, perché Pardo giustamente dice: già il ciclismo è una metafora della vita e racchiude tantissime cose. Nibali è ancora qualcosa in più, perché ci mette del suo, il suo è la creatività, il coraggio anche di sballare. Io mi ricordo quante critiche si è preso, molto più di questo giro, per degli attacchi alla Liegi Bastogne-Liegi, al Giro di Lombardia. Lui è un istintivo, quando sente di dover partire parte, spiazza, anche in un punto, insomma, quello lì non è propriamente un punto esatto alla Nibali, perché dovrebbe avere una salita magari più arcigna, più dura, invece lui magari... Vabbè, diciamo che ero molto più istintivo qualche anno fa, invece ora si ragiona un po' di più, ecco. Quante volte hai visto, amici miei, Vincenzo, colpo d'occhio, intuizione, fantasia e velocità di esecuzione, dicevano sì, gli immortali. Sono un po' una combinazione di queste cose, esatto. Senti, comunque, dimmi. No, gli volevo solo chiedere quanti giorni di relax si prende da qua al prossimo impegno che farà il tour in chiave Rio de Janeiro. Ma guarda, circa una settimana, perché poi già giorno 13 saremo di nuovo in ritiro e pensando al Tour de France. Ecco, ieri c'era qui Cassani, Vincenzo, per chiudere, e diceva, io ho parlato con, a parte che io ho messaggi dite a Nibali di salutarci Paolo Slongo, dite grande Nibali ma qualche parola per i gregari e il vecchio Scarponi, eccetera eccetera. Ieri eravamo qui in onda con il CT Davide Cassani, che ha detto che insomma siete in contatto, è in contatto con la tua squadra, andrete al tour, sì. E tu andrai al tour per preparare Rio, è così? Ma l'obiettivo è questo qui, perché è chiaro che avendo fatto il giro ora bisogna recuperare le energie per il tour. E per il tour abbiamo Fabio Aru che si sta preparando veramente molto bene per questo tour che andremo ad affrontare, quindi non sarà semplice, perché il Tour de France richiede veramente un grande impegno. Per me è chiaro che, pensando alle Olimpiadi, sarà un'occasione magari ripetibile, quindi ci sono tutti i buoni propositi per far bene, e il Tour de France sarà la corsa che può darmi il colpo di pedale giusto arrivando in condizione per le Olimpiadi. Un'ultima cosa, Vincenzo, l'abbraccio della famiglia di Chavez com'è stato? Me lo chiede qualche ascoltatore? È stato bello, è stato commovente, perché loro sono venuti da me a complimentarsi, ed è stato commovente perché loro erano, come dire, tristi. Io, vedendo un po' la tristezza, ho voluto lanciare l'abbraccio, perché Esteban è veramente bravo, è un ragazzo che sicuramente in futuro ne sentiremo parlare tanto, e i genitori di Esteban sono delle persone veramente bravissime, e lo si può vedere nei loro occhi, nella loro persona. Grazie Vincenzo, grazie di tutto. Niente. Ma Scarponi, grazie. Quindi Scarponi è il Casemiro del ciclismo. Scarponi è il Casemiro del ciclismo, sì. Mi sembra da Iesi, se non sbaglio, Iesi, Filottrano, Marche, giusto? Sì. L'Aquila di Filottrano, sì. Filottrano. Michele è un uomo squadra, ci rende felici tutti, fa gruppo e quando serve va veramente forte. Non dimentichiamoci che Scarponi ha vinto un Giro d'Italia, quindi per una persona come lui mettersi a disposizione non è semplice, e quindi è stata veramente una pedina fondamentale per questo Giro d'Italia. Grazie Vincenzo, grazie a nome di tutti. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Questa grazie. Cosa di gregario del ciclismo è una cosa fantastica, perché è una cosa fantastica quella che ha fatto Nibali, Pierluigi, perché davvero era un giro in cui io non avrei mai creduto, e Vincenzo Nibali è un campionissimo. Io ringrazio Vincenzo Nibali, Pier Augusto Stagi, mi tengo Pierluigi Pardo, sentiamo il traffico, torniamo subito dopo, 800 24 00 24. E sentiremo anche cosa avrà da dire Maurizio Crosetti, che questo giro l'ha vissuto. Tutti convocati. Tutti convocati. Ciao Maurizio Crosetti. Eccolo qua, buongiorno a voi. Buongiorno. Senti, io mando molto affettuosamente, con tutto il mio affetto, a fare in culo tutti quelli che scrivono la parola doping sui messaggi e sui WhatsApp. Posso? Sì, perché comunque posso? Ma sì, si può, dai. Poi fino a prova contraria o a provetta contraria siamo tutti colpevoli o tutti innocenti. Bravo. Ma poi io dico che, come dire, la sostanza del racconto può essere bellissima anche in un racconto di finzione. Tant'è che la grande letteratura mica è vera, è bella, è verosimile. A me non me ne importa niente, lasciando stare il piano etico, so che poi qui si può parlare fino a dopodomani l'altro, ma se lasciamo stare l'etica, e forse non si può, ma astraiamo un attimo, guardiamo la narrazione. Se lasciamo fuori l'etica, non me ne importa nulla che siano drogati o che siano puliti. Mi interessa. Senti Maurizio, io ho provato delle emozioni sabato e domenica. Io ho provato delle venerdì e sabato, io ho provato delle emozioni violente. Quelle ti restano, anche certo. Chi si droga prova delle emozioni violente, pare. Io non l'ho mai provato. No, non lo so nemmeno io, ma io ho provato delle emozioni sportivamente ed emotivamente violente. Il discorso di Maurizio è sofisticato e anche vagamente pericoloso, nel senso che chiaramente, ma è ovvio che esiste un piano etico e che quindi qualsiasi impresa che poi si scopre che sia stata legata a delle manovre, delle combine arbitrali, al doping, chiaramente sul piano etico è inaccettabile, però il racconto, il ragionamento tiene ovviamente, e soprattutto poi c'è un altro elemento che secondo me è più importante, che è la presunzione della buona fede. Nel senso che se no, a questo chiudiamo il ciclismo, chiudiamo bottega, ok, perché altrimenti l'Atletico Madrid arriva lì perché hanno qualcosa in più degli altri dal punto di vista fisico, come qualcuno ha adombrato, eccetera. Cioè, voglio dire, il tema se non vogliamo più crederci, allora chiudiamo le Olimpiadi, chiudiamo il ciclismo, chiudiamo lo sport, chiudiamo tutti i convocati e parliamo di figa. Sì. No, che succede questa cosa strana, no? Magari non ci credi, però ti piace. Non so come dire, io ormai la mano sul fuoco per i ciclisti non la metto più, ma io non la metto per nessuno, Maurizio. Questo sport lo conosco, l'ho amato più di qualunque altro sport, mi ha disilluso moltissimo, ma mai in nessuna di questi passaggi mi è sembrato meno bello, non so come dire, mi ha emozionato meno, mi ha commosso meno. È una cosa, forse scendo a patti con me stesso per non cedere nemmeno un millimetro, no, dell'amore che ho verso il ciclismo, e allora me la racconto da solo la storia. Però davvero quello che ti dà dal punto di vista emotivo, spettacolare, umano, prescinde da tutto il resto, anche se, ripeto, io non ci credo più tanto, ecco. Però ma tu nessuno, dici neanche non ci si crede più a niente, forse quasi a niente, no? No, ma è una forma, secondo me, di rispetto. Cioè, voglio dire, un ciclista che fino a prova contraria, cioè la presunzione di innocenza è fondamentale. Noi tante volte nella vita di tutti i giorni, vita di tutti i giorni. Esatto, no, ma anche nella vita, per esempio, di chi viene fatto oggetto di un'indagine e fino a prova contraria, fino all'ultimo grado di giudizio, deve essere considerato innocente, e noi giornalisti abbiamo una grande responsabilità, perché altrimenti si rovinano le vite delle persone, poi magari dopo che hai fatto i titoloni per mesi scopri che uno viene assolto e c'è una breve a pagina 24 che dice che è stato assolto. Bravo, questo secondo me, bravo. Siccome è un potere che abbiamo noi, ed è un potere di vita e di morte sulla persona, perché chiaramente lo sputtanamento di qualcuno nelle mani di noi giornalisti, dobbiamo renderci conto che può essere pesantissimo, dovremmo nei limiti del possibile educare questo tipo di cultura. Cioè il fatto che se uno viene fatto, cioè che il sospetto non basta, e qui in questo caso è ancora più clamoroso, perché stiamo parlando di un ciclista che ha vinto una gara, e non è che si ha vinto per forza è dopato. Poi è ovvio che la quantità di episodi di doping nel ciclismo negli ultimi anni è stata moltissima, e quindi lo sappiamo, è giusto che sia. Ha vinto e va bene, è chiaro che non è che non è successo nulla negli ultimi anni. Ma il fatto che ci siano stati così tanti episodi dopo, che non vuol dire che se un ciclista vince adesso è dopato, perché se no veramente andiamo a casa. Sì, andiamo a casa in tutti gli sport. Io credo andiamo a casa con i sospetti che ci sono su tutti gli sport spagnoli, compreso il calcio, eccetera. Andremo a casa in tutti gli sport se in tutti gli sport si cercasse anche alle 5 di mattina il doping come lo cercano i ciclisti. Questo è vero, perché non è che sono proprio tutti uguali gli atleti, è di fronte all'antidoping, questo va detto. È vero. Detto questo, Maurizio, che sunto trovi dopo aver seguito questo Giro d'Italia in maniera meravigliosa e strana? Che sunto trovi in questo Giro d'Italia che era finito e che è ricominciato e che si è concluso come tutti sognavamo? Trovo una lezione, forse una parola troppo grossa, ma un'indicazione per tutta la nostra quotidianità, ecco, guarda, una forza simbolica per le difficoltà che ci troviamo ad affrontare ogni giorno, per quando pensiamo che non sia più possibile, per quando avremmo voglia di mollare tutto, per quando le gambe non girano, e anche quando lavoriamo, quando stiamo insieme a una persona, quando siamo padri, figli, genitori, amici, e siamo un po' sfasati e ci sembra di non poter fare più niente bene. E allora forse resistere potrebbe essere anche un modo di rispettarci, di credere che sia possibile. E poi, guarda, esagero, tiriamo anche un ponte, costruiamo un ponte tra il Giro d'Italia e gli europei. Guarda, il Giro di Nibali dice agli azzurri

Il maestro Leo Turrini, buongiorno. Carissimo Carlo, qui sono da poco passate le 3 del pomeriggio, sono sulla Piero Cormano e volevo dire che siamo tutti in coda, perché sapete, è giornata piovosa e quindi siamo molto dietro piovosa. Una safety car, sì. Ormai i piloti di Formula 1 sono come gli autisti della domenica, no? 4 gocce, non si può neanche fare. 4 gocce non si parte, sì. Bravo. E poi ogni nemmeno tanto, in quella che io so, tu insomma, tu sei il cantore oltre che della Formula 1. Sei il cantore, però Cormano no. Sei il cantore della Formula 1 e del ciclismo. A me piace un sacco questo parallelo idiota che è quello tra Monte Carlo e la Parigi-Roubaix. Secondo me sono più o meno la stessa cosa. Sì, beh, sai, diciamo che quando si parla di classicissime dello sport, l'accostamento che hai fatto tu è giusto, ci puoi anche mettere se ti allarghi allo sci. Anacronismo allo stato puro. La discesa di Chris Buell, no? Per gli sciatori, che è un'altra cosa che fanno da un secolo. Bravo. È così. Bravo. Però volevo dirti, sempre per notizie sul traffico, che essendo ormai piloti di Formula 1, autisti della domenica, anche taluni tra loro talvolta quando piove mettono la gomma sulla striscia bianca pedonale e si vanno a schiantare contro un guardrail, come è accaduto ahimè dolorosamente al mio idolo personale Kimi Raikkonen, che ieri ha fatto una cosa da rincorrerlo con il forcone, mentre io poi alla fine sono obiettivo, è andato a muro, sì, è andato a muro alla curva dell'ex Lurs. Ma lasciami dire una cosa, anche Verstappen, che potrebbe essere figlio di Raikkonen, no? È andato a sbattere. Amico mio, Verstappen è andato a muro 3 volte in 3 giorni. Secondo qualcuno questo vuol dire tenere coglioni. Beh, allora io ti dirò, sempre per essere il più possibile distaccato. Non ce la fai, va bene. No, ma voglio dire che Monte Carlo, io come te, abbiamo visto andare a sbattere a Ayrton Senna, che aveva un minuto di vantaggio nell'88, sì, abbiamo visto Schumi, che era in posto alla Ferrari nel 96, uscire di pista al primo giro sul bagnato, abbiamo visto una corsa incredibile con Patrese, Giacomelli, il terzo finivano tutti la benzina per strada, una gara memorabile. Però voglio dirti quindi che a Monte Carlo, che tu sia giovanissimo o ipermaturo, fuori classe o pippone, di sbattere ci sta. Semmai potremmo dire questo, che per una volta il baby fenomeno Verstappen si è ricordato dei lombi paterni. Suo padre Joss era chiamato Verstappen, perché quando correva in Formula 1 ti chiama ovunque. Però diciamo che il ragazzino, che ha preso tutto dalla madre, come ho già spiegato, no? Si è un po' adattato stavolta invece all'imprinting, al DNA del genitore maschio. T'ho detto, fammi anche parlare dei bibitari, no, allora devi dirmi dove erano quelle gomme, bravo, che hanno impedito a Ricciardo di vincere una corsa che avrebbe meritato. Poi parliamo del Moro, che è tornato sul podio, e questa è una buona notizia, eccetera. Secondo me le 4 gomme della Red Bull erano da quel gommista che c'è sulla Piero Cormano, mi sembra c'è un autogrill che c'è anche il gommista, no? Perché io una roba del genere, ti giuro, maestro Genta, in un secolo di Formula 1 non l'ho mai vista. Mai? Allora, che possa accadere, ricordiamo l'Irvine della Ferrari del 99. Esatto, me l'ha ricordato. Che manca una gomma, no? Che possa capitare che magari nella concitazione te ne montano 2 di un tipo e 2 di un altro, anche questo si è visto. Ma è cosa così? Nella gara più prestigiosa che c'è, quella che tu prima accostavi alla Parigi-Roubaix, io ho la discesa libera di Chris Buell, una gara che Ricciardo meritatamente aveva ormai fatto sua già dai prodigi del sabato in qualifica, poi ieri in corsa, entra in box, chiamato dalla squadra, quindi nemmeno puoi dire è stato lui che nella frenesia si è buttato, no? Verso il pit stop, se è. E guarda la cosa, devo dire, sembra degna di Fantozzi e Fidini, se tu hai notato il filmato, ci sono i 4 meccanici che gli smontano le gomme da togliere, che lo fanno, no? Senza che a nessuno venga in mente di dire ma dove sono le 4 gomme nuove, no? Perché per assurdo, se quando lui si ferma non sono pronti, quelli che le debbono levare, non montare, non procedono l'operazione, beh, lui torna in pista, vabbè, avrà perso i 20 secondi, hai capito? Certo. Non lo so, allora io penso che questi Red Bull sono bravissimi, hanno fatto una rimonta straordinaria, ci mancherebbe altro, ma alla fine della fiera, anche qui su Piero Corbano che siamo in coda, rimangono dei bibitari, perché questa cosa di quattro gomme mancanti su quattro è una roba da bibitari. Ora tu pensi, è una roba da oratorio, ma tu pensi, non, non la Formula 1, oratorio, fanno, oratoriale. Se lo fanno al box della Ferrari, no, vabbè, se lo fanno al box no. della Ferrari scattano no. le interrogazioni parlamentari, Turrini. Non solo, e arriva bene, deve tornare a nuoto dal porto di Monte Carlo fino alle coste di Cervia e poi dopo da lì arriverà a Maranello facendo l'autostop. Cioè, devo dire, a me dispiace per Ricciardo perché comunque è un grande personaggio, avrebbe già meritato, grande personaggio, grande pilota, ragazzo molto simpatico, Ricky Ricciardo, e ieri avrebbe meritato questa vittoria. Sì, no, poi è uno che ti dico, come stile, come atteggiamento, fa bene all'automobilismo, perché noi ce lo siamo raccontati spesso, ha portato insomma un po' di allegria, un po' di, ovvio che ieri sul podio non era allegro, sembrava morto, ci mancherebbe altro, scusami. Il suo approccio è sempre stato molto positivo rispetto a tanti colleghi che invece sono dei robottini, no? Ricciardo è uno che ti fa la battuta, che ride, eccetera. Peccato, perché ripeto, non serve a nulla, non vale niente, ma il vincitore morale ieri è lui. Senti, torniamo a bomba invece sugli altri due argomenti cardine, al di là delle gomme di Ricky Ricciardo e della Piero Cormano. Il Moro ancora fermo, ancora fermo. Sì, non ho dubbi con la macchina sfasciata. Il Moro che in un modo o nell'altro torna a vincere, Rosberg che fa una gara da coprirsi gli occhi, da vietare ai minori, e la Ferrari che nel momento in cui mancano le Mercedes vincono gli altri, nel momento in cui Rosberg non c'è arrivi quarto, incassi due fish e vai a casa con le pezze a sedere anche da Monte Carlo, e allora come la mettiamo? Partiamo dal Moro. Beh, allora Hamilton certamente non poteva continuare a perdere, con Barcellona era arrivato tra fine stagione passata e inizio di questo campionato a 8 sconfitte consecutive, una cosa che non si spiegava neanche con Lenza Ivon. Ma insomma, neanche con Lenza Ivon, considerato il talento del soggetto. Io credo che Hamilton, al di là del fatto che la Red Bull ha buttato via la vittoria di Ricciardo, abbia comunque offerto uno spettacolo grandioso, perché quello che è riuscito a fare restando fuori a lungo con le gomme da ultra bagnato è sensazionale. Cioè, questo è uno che quando non deve vedersi con Lenz Ivon, quando magari non va ai party con Justin Bieber, che ho visto che ieri era lì, cioè quando fa il pilota, io non voglio dire che ne abbia di più, per carità, perché poi io lo voglio dire, ricordo il 2007 quando arrivò come una supernova nel cielo della Formula 1, un debuttante assoluto, e già la prima gara se la giocava alla pari con Alonso e McLaren, con Raikkonen che allora era in auge in Ferrari, quindi niente da dire. Tra l'altro adesso, guarda, per accennare al discorso che tu facevi, Rosberg, mica roba, e la Ferrari sta venendo fuori una situazione carina di classifica, perché è vero che la Mercedes ha vinto 5 Gran Premi su 6, quindi uno potrebbe dire ma questa è tutta fuffa, però se tu prendi i numeri, cioè per dire, nelle ultime due corse Vettel ha recuperato 21 punti su Rosberg. Sì, però Leo Turrini, ti posso dire che posso dirti, per essere veramente cattivo, che feroce che Vettel non è più il valore aggiunto che era l'anno scorso, quando ha fatto delle cose ai limiti del miracoloso. Quest'anno sta ovviamente facendo suo, è un grandissimo campione, però non riesce più a toccare i limiti del miracoloso. Allora, non è un'osservazione sbagliata, perché lo stesso Seb, se hai fatto caso alla fine della gara di Monte Carlo, ha fatto mea addirittura culpa. Ha chiesto scusa alla squadra dicendo ma il podio l'ho perso io, perché comunque dovevo scavalcare Massa, non restare così tanto tempo alle sue spalle. Sicuramente il Vettel che abbiamo visto nei primi 6 Gran Premi di quest'anno è, diciamo così, un Vettel umano. Sì. La tua considerazione è corretta. Lui l'anno scorso in certe situazioni aveva veramente offerto non la sensazione, la garanzia che era capace lui di metterci qualcosina in più. Questo però ha una spiegazione, vuol dire che la macchina non trasmette fiducia in questa fase, quantomeno a chi la guida. Per tutto il weekend di Monte Carlo, sia Raikkonen che Vettel erano molto tesi, molto nervosi, perché avevano la percezione che questi problemi sulla vettura, che non riesce a scaldare le gomme, che ha un difetto di aderenza, che ha troppo poca trazione, insomma, erano molto condizionati da questo tipo di realtà. Io quindi sono d'accordo nel dire che il Vettel che abbiamo visto finora non è quello dell'anno scorso. È anche vero che lui dalla macchina che sta guidando certamente si aspettava molto di più, perché poi non possiamo girarci attorno, eh. Cioè, tu vai a Monte Carlo e la Red Bull è più veloce, perché Verstappen va a sbattere, no? Nella qualifica e parti da dietro, insomma, qui c'è una cosa che si trascina da molti troppi anni, ma l'anello che quando vengono portate le famose evoluzioni, gli aggiornamenti, no? Sì, gli sì. sviluppi. Sì, ecco, sì, questi sviluppi non funzionano mai. Sembrano Felipe Melo il centrocampo dell'Inter, che dice entra Melo, porterà un po' d'ordine, no? Ecco, così parla della mia programmata. Sì, sì. Hai capito? Ecco, allora è su questa cosa che bisogna lavorare, perché chiaramente c'è un problema di metodo, un problema anche secondo me di ricerca proprio e sviluppo, come si dice in gergo. Perché la Ferrari di inizio campionato prometteva molto di più di quello che abbiamo visto, esatto, poi successivamente. Esatto. Dopodiché, siccome io mi aggrappo sempre alla metafora, il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, il bicchiere è quasi tutto vuoto, però ti accennavo poco fa, con la Red Bull che va, con Hamilton che torna a vincere, cioè tu prendi veramente la classifica del mondiale, in due gare Vettel ha recuperato 21 punti al capo classifica che è Rosberg, il che vuol dire che se la Ferrari facesse un salto di qualità in una lotta a tre, te la puoi sempre giocare. Sì, la poi guardi dopo... in controluce, la guardi in prospettiva. Sì, però, sì. Però questo cosa vuol dire? Che ovviamente se mia nonna avesse avuto le ruote sarebbe stata una carriola. Se mettiamo gli occhiali rosa, vediamo un bel tramonto anche quando piove. Io non voglio prendere in giro nessuno, perché ripeto, Monte Carlo, primo gran premio dell'anno, la Ferrari senza podio. E questa volta Rosberg aveva problemi di macchina, Verstappen è andato a sbattere, esatto. E allora quando mai l'impresa di essere anticipati, bravo, da una e allora quando mai argomenti di future prossime discussioni amabili con il maestro Leo Turrini. Ciao, grazie. Buon lavoro. Torno sulla Pero Cormano qui nel traffico. Fammi sapere se succede qualcosa ancora. Promesso. Ciao Leo, grazie. Ciao. Un messaggio meraviglioso dopo aver chiacchierato con le Turine ed è questo: gente, è 3 anni che ti ascolto e sono giunto a questa conclusione. Tu di sport e quindi forse della vita non capisci un cazzo. Io ringrazio questo ascoltatore che ha perfettamente ragione e passo ad altri ascoltatori che hanno chiamato 800 24 00 24, numero verde. Ennio, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Beh, io ho chiamato poco fa perché volevo ringraziare in diretta Vincenzo Nibali. Sì. E quindi dicevo che io a 60... Mi sente? Sì, sì, certo che la sento. Ah no, perché sento il ritorno di voce, perdoni. No, sento a bene. A 63 anni praticamente io sabato ho pianto per quanto ho visto un uomo correre in bicicletta, non una macchina. Guardi, io ho... piangere no, però ho sentito l'emozione sportiva più grande certamente dell'ultima stagione, certamente dell'ultimo anno. E quindi l'ho ringraziato anch'io, perché è stata un'emozione sportiva violenta quella che abbiamo visto. Poi sappiamo perfettamente come le circostanze abbiano dato una mano, no? Perché se la maglia rosa olandese non finisce contro il muro di neve, se ci sono molti interrogativi, però lo sport è anche questo. Quindi Vincenzo Nibali ha messo con le spalle al muro, se vogliamo, dei corridori con minore esperienza, con minore talento, e ci ha offerto questa meravigliosa emozione sportiva. E lo sport è questo, è grande emozione, come mi dice lei. Non ho niente da aggiungere. Andrea, buongiorno. Buongiorno. buongiorno. Io invece ho pianto sabato, ma perché venerdì a mezzogiorno e un quarto sì. ho guardato le quote di Nibali e ho visto che era a 26. E io ho detto, è andato a puntare. Bravo. Ho puntato e non solo bene, quello. Veramente un... Ho fatto una schedina di 13 risultati, compreso Nibali, e l'ho azzeccata. Quindi ha pianto per questioni di denaro. No, io sono un tifoso di ciclismo. Pianto per questioni di denaro. Di vil denaro, dai. Sinceramente l'ho puntato perché ci credevo, perché io ho detto, io l'avevo vista in un'altra maniera. Ma ci credeva quando? Venerdì mattina, prima che Cruyff cadesse, ma no, non pensavo a quello, pensavo alla tappa di sabato, perché avevo visto che ci potevano essere dei temporali, e allora io ho detto, potrebbe essere una tappona, invece poi non ci sono stati temporali sabato. No, ma il discorso è diverso, cioè io non ricordo una grande corsa a tappe così sigillata come era il Giro d'Italia a mezzogiorno, ma non solo a mezzogiorno, alle 3 del pomeriggio, quando stavamo parlando con Pieraguzzo Stagi. Non ricordo una corsa a tappe, una grande corsa a tappe sigillata e chiusa come era il Giro d'Italia, tanto che noi, sbagliando in maniera clamorosa, dicevamo va bene, oggi sul Colle dell'Agnello sarà Melina, si punta al vincitore di tappa, non ci saranno sconvolgimenti in classifica generale. Invece è andato tutto in maniera diversa, al di là delle scommesse. Ne converrà, no? No, convengo. Però, secondo me, io avevo pensato, Nibali non può essere diventato un brocco all'improvviso. L'altro era forte, ma non era il campionissimo. Secondo me la quota, adesso lasciamo perdere cosa, la quota 26 era invitante. Ma non è questione di brocco, no, è questione di distacchi, è questione di condizione. Cioè, venerdì, le ripeto, ne stavamo parlando con Davide Cassani, ne stavamo parlando con Pieraguzzo Stagi e sappiamo bene quanto questi individui abbiano visto e conoscano il ciclismo in maniera profonda e completa, ed eravamo tutti qui ad analizzare i motivi per cui Nibali, pur sentendosi bene, tanto che si era sottoposto ad analisi mediche per capire, mi sento bene ma non riesco ad andare forte, era un Giro d'Italia praticamente perso. E poi è un Giro d'Italia che si è improvvisamente riaperto come un fiore. Quindi questo era veramente difficile da immaginare, al di là delle quote, delle scommesse invitanti e di tutte queste cose qui. È stata semplicemente un'impresa che io ho paragonato ieri e paragono tutt'oggi, almeno per quanto riguarda gli ultimi due giorni, all'impresa dell'Ester in Inghilterra, perché era una cosa praticamente impossibile dal punto di vista anche tecnico. C'erano degli avversari come Chavez, come Cruswick, come quelli che conosciamo, quelli che erano lì davanti a Nibali in classifica generale, che non davano nessuna idea di poter cedere il Giro d'Italia. Quindi è avvenuto qualcosa di impronosticabile. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Battivaglia. Allora, io sono nazionalista, prima viene l'Italia, gli italiani, quindi quello che ha fatto Nibali è stato meraviglioso e dimostra che noi italiani, prima che parlano male di noi italiani, si devono sciacquare la bocca. Noi siamo i più forti del mondo, culturalmente siamo i più forti del mondo, quindi Nibali ha fatto un'impresa eccezionale. In un certo senso mi ho paragonato anche al grande Pantani, quindi sono contentissimo per lui che ha vinto il Giro d'Italia. Ha dimostrato di essere un campione, anche se non cadeva, può darsi che faceva il secondo posto, però non ha dimostrato di essere un campione. Io non riesco ad essere così nazionalista, io mi perdoni, riesco ad ammirare i grandissimi campioni qualunque passaporto abbiano in tasca. Vincenzo Nibali, okay, è italiano, quindi a maggior ragione ci fa felici con la sua fantasia, con la sua intuizione, con anche la sua incoscienza che ha dimostrato in questo Giro d'Italia. Però, ripeto, è un'impresa che è stata emozionante per il modo in cui è maturata. Quando tutto sembra impossibile, quando tutto sembra finito, ecco che esce qualcosa di inaspettato, come un arcobaleno in mezzo all'uragano. Sentiamo domani, ragazzi. Abbiamo finito qui. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Tutti i giorni insieme, in diretta, con tutti convocati, e siete sempre tutti convocati. Ciao. Che spettacolo, da brividi!